Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, io sono pronta per iniziare insieme un'altra settimana. Restiamo a casa, lo sono anch'io, ma in contatto. Come sapete, Obiettivo Salute con voi ha proprio l'obiettivo di farci incontrare, di confrontarci con gli esperti, di acquisire le informazioni e maturare le conoscenze che sono necessarie per affrontare questo periodo in cui è importante che ciascuno di noi salvaguardi la propria salute per proteggere quella degli altri. 349-238-6666, il nostro numero per restare per l'appunto in contatto. C'è Giorgio De Luca in assistenza, Peter Bescapè in regia, Laura Vanossi in redazione, che saluto e ringrazio. Ma oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento Malattie Infettive all'Ospedale Sacco di Milano. Professore, grazie. Buongiorno a tutti. Professore, grazie per dedicarci questo tempo. Intanto i dati di questi ultimi giorni ci invitano ad un cauto ottimismo. Non bisogna mollare, ci vogliono naturalmente conferme che arriveranno nel prossimo futuro, ma professor Galli, partiamo con un suo messaggio. Che cosa si aspetta? Che cosa vede? Possiamo dire che stiamo vedendo uno spiraglio in fondo al tunnel? Tutti quanti mi chiedete sostanzialmente di dire questo, io posso soltanto rispondere che si cominciano a vedere probabilmente degli elementi di minor pressione sugli ospedali, che però non sono ancora quelli che ci consentono di cantare vittoria. Dobbiamo vedere come si consolida questo andamento nella prossima settimana per quanto riguarda l'ambito, direi, della Lombardia in generale, e per quel che mi riguarda più direttamente di Milano in particolare. Dobbiamo anche vedere che cosa succede nel resto del paese, perché se non si riesce a fermare il tutto nelle altre aree del paese, allora veramente saremo ancora nei guai fino al collo, senza vedere una vera via d'uscita. Quindi è una battaglia che si vince tutti insieme. In casa, il distanziamento sociale è fondamentale, la battaglia va vinta in tutto il paese e su questo c'è ancora molto da assestare. Professore, Fauci sintomatici e asintomatici sono una fonte di contagio e di diffusione del virus. Questo è un problema serio che naturalmente richiede di essere affrontato, ma la soluzione sembra difficile da trovare. Come se ne esce con quello che abbiamo oggi a disposizione? Se ne esce, appunto, parlava lei di contatto prima, no? Un contatto non fisico ma un contatto reale con la gente. È fondamentale che soprattutto nell'area come quelle della Lombardia più colpite dall'infezione, ma questo riguarda anche tutte le regioni vicine, è assolutamente fondamentale riuscire ad essere vicini di fatto alla gente, insomma, no? Nel senso di che si possa arrivare a permettere una gestione del problema a domicilio tale da essere da una parte rassicurante, dall'altra di garanzia, e si possa trovare una maniera, direi, più agile e più funzionale di quello che si è riusciti con grande difficoltà ad avere fino adesso per l'eventuale ricovero delle persone. E poi bisogna anche tenere conto che non possiamo fare a meno di ambiti di convalescenza che possano essere anche di convalescenza in sicurezza. Le persone dall'ospedale devono poter essere dimesse e andare in luoghi, visto che non le possiamo dimettere, che hanno il virus completamente eliminato, le dobbiamo per forza dimettere con il virus ancora presente, altrimenti non abbiamo spazio per chi ha bisogno di assistenza, certo, e non respira. Allora, per questo bisogna avere dei luoghi dove poterli mettere questi pazienti, dove abbiamo queste persone, anche perché non tutti possono tornare a casa riportando magari a casa l'infezione, perché gli altri familiari non sono in grado di garantire nell'ambito della dimensione domestica una area in cui poter stare tranquillamente convivendo con il con la persona che l'infezione era ancora addosso. Quindi questo è un problema serio e ancora non del tutto risolto. E l'altro direi non risolto. E gli altri problemi che abbiamo sono la stessa cosa per quelli che non vengono ricoverati in ospedale, ma che a casa stanno in due locali e servizi con altre persone che non è detto che si siano già infettate. È tutto un lavoro complicato, ma che è fondamentale per accorciare i tempi e limitare i danni. Accorciare i tempi dell'epidemia, perché non si diffonde ulteriormente, limitare i danni sia in numero di persone colpite, sia in prospettiva, generalizzando il discorso, di persone che poi si trovino a rischio di vita, perché hanno un'età e delle condizioni tali per cui la malattia diventa quel che è in tutta la sua, ahimè, virulenza. Professor Galli, ci aiuta dandoci dei suggerimenti, dei consigli per vivere in famiglia, perché questo è un po' complicato, però le famiglie che ci proteggono. Se tu hai, hai servizi per forza condivisi, estrema attenzione ed estrema igiene. Pulizia, utilizzo abbondante di disinfettanti, quelli di cui abbiamo già parlato un'infinità di volte. Ogni volta che tiri lo sciacquone deve essere tirato a sportellino chiuso e poi bisogna bonificare anche all'interno dello sportellino. Questo lo può fare la persona che ad esempio ha la febbre o ha il sospetto di avere l'infezione, perché teoricamente c'è anche la possibilità che nelle feci sia presente il virus, che poi tirando lo sciacquone fa una specie di aerosol nell'ambiente, ecco, per cui si deposita anche attorno. Quindi va fatto a sportello chiuso e va fatto con estrema attenzione anche per quanto riguarda la bonifica successiva, l'interno dello sportello quando lo riapri e anche l'asse su cui ti appoggi va accuratamente ripulita con i mezzi che tutti quanti più o meno già abbiamo in casa questa bisogno. Malissimo che vada, va bene anche proprio una bella ripulita con acqua e sapone, pur di non, se non hai nient'altro, ma credo che tutti certo. quanti ormai siamo attrezzati in questa direzione. Ecco, questa è una prima indicazione. L'altra indicazione: sospetta di infezione, ti metti la mascherina. E se non hai altro, vai a dormire sul divano. Ecco, se gli altri sono, se hai un solo letto condiviso. Ecco. Certo. E ti metti la mascherina e te la tieni anche a domicilio. Vedi di mangiare sfasato. Quando tu stai mangiando senza mascherina, gli altri non sono lì con te e magari ti salutano a distanza di sicurezza e ti incoraggiano, voglio dire. Certo. Non voglio buttarla sul goliardico, ma è meglio essere prudenti che trovarsi l'interessa migliore infettata. Professore, e non grazie sto dicendo per essere... che questa sia la cosa migliore, sto dicendo che è l'unica cosa che in molte situazioni è possibile fare per limitare i danni. E certo, noi contiamo su di voi che siete in prima linea in ospedale, ma anche voi dovete poter contare su di noi che dobbiamo fare la nostra parte. Professore, l'abbraccio e la ringrazio. Grazie a lei di nuovo. Bene, come sapete ogni giorno noi dedichiamo un'attenzione particolare alle persone che in questa emergenza vivono una condizione di particolare fragilità. Oggi ci occupiamo di chi soffre di una malattia cardiovascolare. Circulation, che è una delle più importanti riviste scientifiche di cardiologia, ha appena pubblicato un articolo in cui si discutono le implicazioni sulla cardiologia dell'emergenza dovuta al Covid-19. Ne parliamo direttamente con l'autore, che gli ascoltatori di Obiettivo Salute conoscono bene, perché è intervenuto in diverse occasioni anche in numerose dirette Facebook, è il professor Giulio Stefanini, che saluto, cardiologo. Buongiorno professore. Buongiorno. Presso l'unità operativa complessa di cardiologia clinica interventistica all'Istituto Humanitas e docente all'Humanitas University. Professore, ci fa una sintesi del contenuto dell'articolo? Di fatto abbiamo condiviso la nostra esperienza, che sicuramente può essere molto utile, particolarmente per chi ancora deve affrontare la grande emergenza del virus. visto che di fatto le implicazioni cardiovascolari di questo virus sono importanti. I pazienti però, professor Stefanini, con malattie di cuore hanno un rischio più alto di Covid-19? Sì, di fatto, come anche scriviamo in questo articolo, purtroppo hanno soprattutto un rischio più alto di avere delle forme più gravi di Covid-19. Quindi i pazienti che hanno problemi di cuore devono stare ancora più attenti a non esporsi al contagio. Quindi è importantissimo che rispettino attentamente tutte le normative riguardo il distanziamento sociale, devono veramente fare tutto il possibile per non infettarsi, è un messaggio molto importante questo. Professore, ma io ho letto che la Società Italiana di Cardiologia è preoccupata perché state ricoverando meno infarti in questo periodo rispetto al passato. In questa emergenza suona come una notizia di cui preoccuparsi, perché? È un dato strano, però sì, è vero ed è preoccupante. Il presidente della SIC, il professor Indolfi, ha fatto una survey su tutto il territorio nazionale andando a raccogliere questi dati e confrontarli con quello che succedeva un anno fa di questo periodo. E quello che è stato visto è stata una riduzione del 60% degli infarti che arrivano in ospedale. E al tempo stesso un incremento invece dei malati con un infarto acuto che arrivano in ospedale troppo tardi, quando le cure sono meno efficaci. Questo non va bene, perché purtroppo rischiamo di non poterli curare adeguatamente. La tempistica è fondamentale nel contesto di un infarto acuto. Quindi, anche in tempi di emergenza. Sì, quindi, professore, adesso io devo dare la... Sì, professore, devo dare la linea alle informazioni sul traffico, così Peter Bescapè sa che sono una personcina per bene. La domanda è: come si può fare per non intasare il pronto soccorso di malati con dolore al petto che poi non sono infarti? Ne parliamo tra poco insieme al professor Stefanini. Grazie. Obiettivo salute. Malattie cardiovascolari ai tempi dell'emergenza coronavirus, ne stiamo parlando con il professor Stefanini, che è in linea con noi, che ci sta raccontando anche il contenuto dell'articolo pubblicato su Circulation, di cui è autore. Ma professore, come si fa a non intasare il pronto soccorso? Quali sintomi e segni la persona con malattia cardiovascolare deve stare attenta, e direi anche la persona che non sa di soffrire di una malattia cardiovascolare? Beh, sicuramente il fatto di non intasare i pronti soccorso è fondamentale, anche perché potrebbe anzi diventare una fonte di contagio. Diciamo che la prima regola, secondo me, è che le persone devono capire il loro rischio individuale. Quindi innanzitutto un paziente che già ha dei problemi di cuore, quindi ha un rischio cardiovascolare alto, sta di avere problemi di cuore, se si sente male non deve tardare a chiamare il 118, non deve aver paura di andare in ospedale. Questo è molto importante, ma questa è la cosa più semplice. Al tempo stesso invece le persone che non sanno di avere problemi di cuore devono stare attente molto ai sintomi tipici dell'infarto, che non ci stancheremo mai di ripetere: un'oppressione forte al petto che si irradia al collo e si irradia al braccio e che dura ben più di 10-15 minuti, quindi non è una roba istantanea di qualche secondo, ma dura parecchio, e spesso si associa a una fame d'aria. Professore, in una sezione del suo articolo è dedicata proprio alla protezione degli operatori sanitari, parliamo di medici e di infermieri, che cosa avete suggerito? Beh, questo è un tema molto delicato, perché sì, I miei colleghi, i medici e infermieri sono esposti tutti i giorni a rischio di infettarsi, e questo è particolarmente vero nella gestione delle emergenze, perché se arriva un paziente con un infarto noi non sappiamo se il paziente ha Covid o non ha Covid, quindi questo incrementa, certo, ulteriormente il rischio di infezione. In questo senso si deve muovere il sistema sanitario, garantendo la massima protezione e soprattutto mettendo a disposizione i dispositivi di protezione individuale adeguati per proteggere i medici ancor di più nella fase acuta di una patologia non Covid, in cui ci troviamo a gestire un paziente che non si sa se è infetto o meno, e quindi i medici e gli operatori vanno protetti. Grazie al professor Stefanini per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, prof. Buona giornata a tutti. Bene, come ogni primavera sta iniziando la diffusione dei principali pollini allergici. Allora, per aiutarci a distinguere i sintomi di infezione Covid da quelli delle allergie respiratorie, ho chiesto aiuto al dottor Lorenzo Cecchi, che è presidente eletto dell'Associazione Allergologi, Immunologi Territoriali e Ospedalieri. Dottor Cecchi, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottor Cecchi, l'allergia, quindi parliamo di rinite, di asma, può rappresentare un fattore di rischio? In sostanza, chi è allergico ha più probabilità di ammalarsi di Covid o di avere complicanze? Ma in realtà su questo possiamo rassicurare tutti gli allergici, perché tutti i dati che abbiamo a disposizione adesso, sia quelli provenienti dalla Cina sia quelli preliminari che abbiamo noi, dicono che avere l'allergia anche respiratoria non è un fattore di rischio per contrarre l'infezione, neanche per avere un'asma o comunque una reazione più grave dall'infezione da Covid. Chiaramente nel forme di asma grave sono per fortuna la piccola percentuale degli asmatici, un po' il buon senso ci dice che comunque bisogna essere un pochino più, diciamo, più attenti, ecco, allo sviluppo dei sintomi. Ecco, dottore, lei ha toccato il tasto dei sintomi. Andiamo ai sintomi, quindi alle differenze tra allergia respiratoria e Covid. Faccio una sorta di specchietto. Sì, certo. Ovviamente la complicazione è che si sta verificando tutto questo nel momento in cui sono partiti i pollini, e quindi le cose sono molto più complicate per chi è allergico. Comunque chi è noto a essere allergico conosce bene i suoi sintomi e sa che sicuramente la rinite, cioè il naso che cola, gli starnuti e la congiuntivite, quindi prurito agli occhi, sono sintomi che più tipicamente rappresentano quelli dell'allergia e invece sono molto molto meno frequenti nelle forme da Covid. Il cardine per distinguere bene le due forme di patologia ovviamente è la febbre, perché la febbre e la tosse sono i sintomi che sono più frequentemente presenti nell'infezione da Covid, mentre nell'allergia la febbre non è mai mai presente. L'allergia non ha mai la febbre. No, ma le febbre non hanno neanche quei sintomi, diciamo, generali, cioè, malessere generale, dolori articolari, muscolari, ecco, questo punto qui no. Può essere un po' di spostatezza che è tipica dell'allergia, ma anche della terapia. Senta, dottor Cecchi, chi soffre di asma, sia allergico che non allergico, può avere la tosse? E allora come si fa a capire che si tratta di asma e non di Covid? Ribadiamo il concetto sempre appunto della presenza di febbre, ma soprattutto nel caso degli asmatici che hanno sintomi con la tosse, chiaramente la terapia per l'asma non risolve il problema. Se invece tutto questo non funziona, quindi i sintomi continuano a peggiorare e ovviamente si aggravano, sempre ripeto, ricordiamoci della febbre. Quindi no, la sto sentendo sempre, la sto perdendo, dottor Cecchi. Ho capito. La differenza sostanziale è la febbre, ok? Per quanto riguarda la tosse, invece, e parliamo di persone allergiche, se con i farmaci che abitualmente la persona allergica prende non passa, ed è abbinata alla tosse, può venirci il sospetto, ho capito? Esatto, assolutamente, sì. Quindi la terapia è fondamentale. E quindi il messaggio che lei si sente di dare ai suoi pazienti, che immagino sentirà, ma anche ai nostri ascoltatori, tra loro ci sarà sicuramente un allergico perché è un problema molto diffuso, quelle delle allergie, qual è? Il consiglio è quello di fare la terapia a maggior ragione, in modo corretto in questo periodo, proprio perché sia perché ovviamente distinguere i sintomi aiuta a distinguere i sintomi, perché se la terapia mantiene sotto controllo la malattia, ovviamente abbiamo meno dubbi su quale sia l'origine del sintomo, ma soprattutto anche perché quelle tipiche cose, pensate alle persone che hanno allergie e continuano a toccarsi il naso, gli occhi, sono delle forme, dei modi in cui anche il contagio può aumentare, perché ci tocchiamo magari con le mani contaminate. È vero, dottore. Attenzione a non toccarvi naso e occhi. Esatto, dottore, la saluto, la ringrazio e ci sentiamo, perché i pollini ci faranno compagnia ancora per un po'. Le auguro una buona giornata. Grazie anche a lei, molto volentieri. Buongiorno. Allora, in linea come sempre in chiusura ci ha raggiunto il dottor Stefano Erzegovesi, direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano, il nostro medicuoco quasi cuoco. Anche questa settimana un'altra sfida lo attende. Pancia mia fatti capanna, dottor Erzegovesi, buongiorno e buon inizio settimana anche a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Pancia mia che fatti cosa capanna, ci propone? Coloriamo questa settimana, faremo un discorso di colori, quindi cercheremo di colorare la nostra dispensa e i nostri piatti con tutti i colori salutari che ci vengono dal mondo vegetale, e quindi non potevamo che cominciare dal colore in questo momento più che ci accompagna nella maniera più semplice, che è il colore della carota e della zucca, quindi i cosiddetti carotenoidi. Carotenoidi preziosi, noi dei carotenoidi ci ricordiamo solo quando vogliamo regalarci una abbronzatura, e allora magari aggiungiamo nel piatto prodotti gialli e arancia, ma i carotenoidi ci servono tutto l'anno. Perché, dottore Erzegovesi? Ecco, importantissimo innanzitutto parlare di carotenoidi, perché normalmente noi infatti pensiamo al beta-carotene, che è il principale, che è quello che spesso colleghiamo alla tintarella, al fatto di avere una pelle protetta quando c'è il sole. Ma i carotenoidi come adesso famiglia, ci facciamo la tintarella di luna. Tintarella di luna, esatto, tintarella di lampadario di casa. Però un pochino fuori sul balcone possiamo stare e prenderci un po' di sole, questo balcone, è importante. Finestra aperta che fa bene a cambiare l'aria e ci fa bene anche qualche raggio solare per la vitamina D, ma intanto pensiamo che i carotenoidi come famiglia, e quindi ricordiamoci che nel vegetale non c'è solo il beta carotene, ma ci sono anche tutti i suoi parenti stretti, hanno un effetto che sottolineiamo moltissimo in questo periodo, è un effetto di grande aiuto sui livelli di ossidazione cellulare, quindi sulla capacità del nostro sistema immunitario di regolarsi al meglio, non troppo perché sennò diventa allergia, ma non troppo poco perché sennò diventa basse difese contro virus, batteri e tutto il resto. Quindi abbondiamo di carotenoidi, cuociamoli bene, perché i carotenoidi, diversamente da quasi tutte le vitamine, si giovano di un po' di cottura e si giovano di un po' di olio, e quindi questo li rende più assimilabili. Ma per sapere cosa fare e come farlo, naturalmente andate sulla pagina di Obiettivo Salute, dove trovate ogni giorno le ricette del nostro medicuoco quasi cuoco, ma anche tanti altri spunti, suggerimenti, le foto di Luigi Sutera, oggi ci porta in Sicilia, i consigli di Alberto Pellai, le coreografie di Beatrice Carbone, gli esercizi di Viviana Ghizzardi, insomma restiamo a casa ma vicini. Grazie dottore Erzegovesi, noi ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.